Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Buonasera, benvenuti alla 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana, il Festival di Sanremo. Abbiamo iniziato quest'anno doverosamente con una citazione, il maestro Penuccio Pirazzoli, questa straordinaria, meravigliosa, unica, insostituibile orchestra ha realizzato una versione particolare di Starman di David Bowie, 1972. Per ricordare questo grande artista era doveroso iniziare così. E perché poi, se ci fate caso... Sì, certo, questo è stato il Sanremo della citazione queer e quindi naturalmente bisogna citare David Bowie, citato da un signore iperabbronzato appena uscito da un lettino abbronzante, che anche lui è un'icona di tutti gli uomini che amano i volti levigati, le pelli ambrate e il sorriso smagliante. Ragionavo mentre andava la sigla che sono più di 25 anni che alla radio questa mattina parlo, celebro e racconto il Festival di Sanremo. Mi piace, mi sembra essere di quegli imbonitori che descrivono ai microfoni delle radio locali la festa di paese. Premetto, Sanremo è andato benissimo, ha fatto gli stessi ascolti dell'anno precedente, 49,5% di share, quindi un italiano su due ha guardato Sanremo, me compreso. Non c'è nulla da dire, figuriamoci. Gli italiani scendono in piazza e inseguono una salma imbottita e siliconata di un frate, quindi figuriamoci se non guardano Sanremo. Sanremo ha un po' questo vantaggio, questo grande privilegio di essere una delle poche feste comandate nell'anno liturgico del nostro tempo sciatto e pusillanime, e quindi evidentemente nessuno può fare a meno comunque di almeno per la prima sera rendere omaggio al santo patrono del nostro divagare, anche se poi divaghiamo molto più facilmente con quello che abbiamo in tasca, smaneggiamo, sditaliamo, passiamo di schermata in schermata, però Sanremo rimane Sanremo, va visto, va osservato, magari porta male se non guardiamo Sanremo. Qual è stata la sintesi di questo Sanremo? Ogni anno è più funereo innanzitutto, sarà perché tutti quei fiori, poi scompaiono sempre meno i fiori, però vedere tanti fiori fa venire in mente una sorta di cerimonia funebre, e è tutto funebre quello che viene annunciato da una grande cronologia degli anni precedenti. Cominciano i primi Sanremo in bianco e nero, poi improvvisamente appare il colore, poi improvvisamente appaiono i nomi più vicini alla nostra memoria biologica. Questo Sanremo doveva essere segnato da una profonda radice ideologica, temutissimo. C'è gente che per giorni e giorni lanciava strali: fate uno spot improprio contro la famiglia sacra e tradizionalmente costituita. Ma spot, sì, è vero, sì, alcuni cantanti hanno tirato fuori le striscioline multicolori per far vedere che loro erano a favore delle coppie arcobaleno. Ma credetemi, parlare di qualcosa che ha un suo valore civile è veramente una battaglia ideologica nel contesto del Festival di Sanremo, e in particolare parlare di matrimoni arcobaleno nel Festival di Sanremo è come se questo argomento importante, delicato, degno della massima attenzione e ragione di un grandissimo contrasto fosse ridotto al vaneggiare di una gattara frociarola con qualche suo amico mentre dà da mangiare ai gattini per strada. Ecco, esattamente questo è dentro Sanremo. E l'elemento massimo della trasgressione, colui che veniva aspettato come una sorta di anticristo, che avrebbe spezzato ogni vincolo familiare, avrebbe distrutto quello che è l'ordine della famiglia, chi era? Elton John. Elton John mi faceva pensare a Mastro Geppetto, ma in una versione ulteriore, ottimistica. Quando finisce il libro di Pinocchio, Geppetto ha una bella giubba e Pinocchio, che torna ad essere un bambino, gli dà gli zecchini che gli dà la fatina, e quindi Geppetto diventa ricco, e quindi con quegli zecchini finalmente si sposa con Mastro Ciliegia, la prima coppia di fatto che hanno un bambino è appunto Mastro Geppetto e Mastro Ciliegia, e diventa obeso perché mangia tantissimo. Ecco, Elton John è Mastro Geppetto dopo che è diventato ricco, mangia e diventa opimo. Ecco, quello è il rischio per tutte le famiglie italiane. Ci sentiamo fra un istante. Ma Melog. Cronache Meridiane. Stasera abbiamo anche una bellissima sorpresa, perché è una coppia speciale, una coppia di sposini. Vi siete sposati questa mattina, vero? Sì, salve, dottor Conti. Sì. Allora, un applauso speciale per questa coppia che ha deciso di... Grazie. Cioè, vi siete sposati e siete arrivati qua a Sanremo. Siamo i coniugi Salamoia. Come? Siamo i coniugi Salamoia. Ah, coniugi Salamoia. Sì, sì, sì. Lei è la signora. Io sono Gianluca Salamoia. Sì. Io Marta Olivia Taggiasca. In Salamoia. Ecco, come la cosa. Sì. Di dove siete? Io sono di Cento. No, io molto meno, Trento. Sì. Sì, sì. Ecco, questo è l'escamotage scaturito dalle profonde e radicali riflessioni di Nuovi Vertici Rai. Come facciamo a rispettare il principio della par condicio? Perché qualcuno non dicesse mai, oltre Tevere, che facciamo un Sanremo a favore delle coppie gay. Ci hanno pensato, ripensato, hanno chiamato gli autori, si sono mossi tutti. Freccero, che probabilmente è un post-situazionista, che è stato a Parigi, conosce la televisione, una persona trasgressiva, ha detto mettiamo i coniugi Salamoia, e hanno messo lì in prima fila una coppia che starà, penso, fino all'ultima puntata di Sanremo. Lei in tulle, vestito bianco, lui con il tight burino grigiastro, rappresenta lo stereotipo della coppia che tanto piace probabilmente al modello tradizionale, lo sposo coglione e la sposa assatanata, assatanata al punto tale di riuscire a immaginare, anzi a simulare, dei sogni erotici con Gabriel Garco, che probabilmente è quanto più lontano possa essere dal modello che possa ispirare l'assatanamento di una giovane sposina. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Gianluca, posso farti subito una provocazione? Sì, provocami. Ma non è che li stai un po' sopravvalutando, questi due sposini infilati dopo le esibizioni dei cantanti per fare così spessore in attesa della classifica? Non lo so, forse stai dando loro un peso che non fa tanto contrappeso. Sai invece un'altra cosa che mi ha fatto impressione, no? Cioè, cosa vuoi dire, Marta? Fammi capire che non sono stati messi lì per dare l'idea che possa esistere ancora un modello di famiglia. Sì, ma guarda, che secondo me... Guarda che sono molto meno intelligenti quello che pensi, gli autori che pensano Sanremo. Non pensare che abbiano pensieri raffinati. No. Hanno detto, mettiamo una coppia di sposi e facciamo tutti contenti. Sì, però mettiamoli che facciano un po' ridere, non li prendiamo troppo sul serio. Hanno sbattuto lì, coniugi Salamoia. Ma Gianluca, tanto lo sai che io ho abbassato l'asta in genere nella vita, non solo sugli altri. Anche io purtroppo, sai. Di cosa stiamo parlando? No, ma la cosa più interessante è stato che Elton John prima ha detto sono diventato papà. Così, non si sa bene come, però sono diventato papà. Si sa però... come ha pagato una signora. Certo. Hanno fatto un mix, lui e la moglie o il marito, non so che, l'hanno redato alla signora e gli ha dato il figlio. Che secondo me si fa così. Però si sciacchera il seme di entrambi e si mette lì, e così si fa. Ecco, e poi però lui ha lanciato un messaggio cristiano dicendo lo spirito cristiano, insomma, nella sua... Sì, aveva gli orecchini con la croce, l'hai notato? Esatto. Che è lo stesso titolo del giornale di Adinolfi, era una provocazione fatta diretta a Adinolfi, non so se l'ha raccolta. Beh, ma sai, Adinolfi ha twittato che era tutto contento. Contento? Perché... Sì, script controllato, ha detto, quindi Adinolfi... Sì, ma cosa si aspettava che facesse Elton John? Scusa, se mettesse in perizoma a ballare il Tuca Tuca, non lo so. Quello ha cantato due canzoni senza voce, bolso e se n'è andato, fine. Quello, Elton John in perizoma. Mentre Gabriel Garco, perché tu dici che non suscita l'istinto delle sposine, magari in perizoma... Ma tu devi dirmelo, 800 24 0024, intanto istigo il pubblico, non è una trasmissione, ci facciamo... Marta Cagnola, vorrei sapere, voi che sicuramente uno su due delle persone in questo momento stanno buttando la cipolla nel soffritto, hanno visto Sanremo, vorrei sapere le vostre impressioni, perché è facile fare i cattivelli, dire io che schifo, è cosa lontana, ma in realtà è la vera profonda espressione di quello che è la pancia del nostro paese, quindi non è che lo voglio disprezzare, dico il mio punto di vista, se il mio punto di vista fosse prevalente avrebbe fatto lo 0%, invece ha fatto un bell'ascolto. Ma tu dove stavi, in sala stampa, Marta, durante il festival? Sì, in sala stampa, poi in realtà a un certo punto siamo stati deportati per il dopo festival, quindi un pezzettino me lo sono perso, però sì, in sala stampa, che poi... Ci ho visto un richiamo disperato, di... mandami per favore i giornalisti, più perché... o meno, vabbè, ma lascio ancora un certo, anche lì, devo dire, anche lì lì un gerontocomio, un gerontocomio di quelli, cioè riemerge Luzzato Fegiz, persone che io vedevo 40 anni fa a parlare di Sanremo. No, ma questo non sempre è il dramma, Gianluca, ma i giovani sono uguali ai vecchi. Cioè i spiegami. Giovani che dicono che a 30 anni, ah no, perché questi, 50 anni, 60 anni, 70 anni, mi sono addirittura sentita dire che ci vuole il ricambio generazionale perché questi 40 anni vecchi che non abbiamo manco ancora cominciato a lavorare, esattamente vogliono seguire le orme dei Luzzatto Fegiz, cioè si comportano in maniera esattamente identica e quindi veramente, non lo so, se i giornali chiudono ci sarà un perché. Ma sai, allora sarebbe un grande argomento, si tira un sospiro di sollievo questi quattro giorni, si ha qualcosa da raccontare, qualcosa da raffrontare, qualcosa da criticare, però noi ci aspettavamo una prima serata foriera di polemiche, ma ti rendi conto non è accaduto nulla che potesse far polemica? Ma è Carlo Conti, è Carlo Conti, e io sono team Carlo Conti, perché Carlo Conti è la rivincita del secchione, è la rivincita di tutti noi che siamo sempre andati benino, non benissimo, abbastanza bene a scuola. Beh, lui, vediamo di analizzarlo come se fosse una sorta di chimera. C'era molto di Pippo Baudo in lui, questo sicuramente. Certo, c'era un abbozzo, un tentativo maldestro di bonolizzarsi, però non è capace, perché proprio l'ironia e lui sono delle cose che sono antitetiche, anche il cogliere elementi trasgressivi, il suo velocissimo andare a portare via l'asta del microfono con i nastrini multicolori, quasi per evitare quello che poteva essere un elemento di disturbo, quando in realtà sarebbe stato forse l'unico condimento, un po' di polemica, il suo fare il gigione, il suo schernirsi quando appunto la pseudo Ferilli, troppo invadente, vero? Troppa Ferilli. Guarda, ne parlavo stamattina. Alla quarta volta non si reggeva più, diciamo la verità. Io avrei preferito metà Ferilli e metà Virginia Raffaele, perché tutta sera Ferilli anche basta. Ecco, lo sai che impressione dà? Non so se tu ti capita mai, ti capitava da bambina, di andare a quelle feste di paese in cui fanno credere che esista, che venga una grande, viene Celentano, Massimo Ranieri, poi in realtà è un imitatore, è un cantante che canta la stessa maniera, che somiglia un pochino e la gente è contenta, capito? Ci sono stati anche... Ne manca, cioè, no? Sì, ma c'è uno pseudo... Non ce l'avevamo. C'è uno pseudo Renato Zero che ancora fa delle feste, dei compleanni, dei matrimoni qui nei castelli romani. E interviene, no, Renato Zero, è un signore uguale. Qua a Sanremo c'è ancora il sose di Pavarotti. Te lo ricordi il sose di Pavarotti? Ah sì, il sose di Pavarotti. C'è ancora! Nonostante sia morto Pavarotti, continua certo. A... Certo! Sì, c'è ancora il sose di Pavarotti. Ecco, Virginia Raffaele mi sembrava... Più che una comica che facesse una parte, insomma un escamotage, cioè non possiamo avere la Ferilli vera, chiamiamola sosia della Ferilli che fa finta di essere la Ferilli, alla quarta uscita non se ne poteva più, era ridicolo, non aveva più senso, dovevamo far finta che fosse la Ferilli. Grazie, sentiamo grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, sì. Non ho parole, io veramente, francamente, è agghiacciante. Beh, adesso non facciamo la lettura moralistica, non è agghiacciante, no, non moralistica, è una grande occasione. Carità, io non l'ho visto molto. La Sanremo, l'ho vista 20 minuti, poi non ce la potevo fare. Ho assistito all'anziano che faceva il salto triplo, ma non è possibile. Cioè, mi veniva una tristezza cosmica, la Ferilli che non faceva neppure ridere. Sì, forse la prima battuta poteva far sorridere, poi dopo sì, non faceva più ridere, onestamente. Neanche, cioè, sembrava di vedere Noschese di quando ero bambina. Imitato malissimo. Sì, ma lo Schese aveva il buon gusto di cambiare continuamente personaggio, i suoi sketch duravano pochissimo, non erano così lunghi. Alle successive uno aspettava sempre la sorpresa. Marta, ma quale sarà, diciamo, l'asso nella manica della Raffaele, che tutti aspettano che imiti la Boschi, lo farà l'ultima serata e tutti faranno finta che è una cosa... Sì, guarda, le due imitazioni più attese sono Boschi e Belen. L'anno scorso Belen ha già fatto finta ad arrabbiarsi, ha detto no, sì, non può. Ma invece la Varoni l'anno scorso si arrabbiò sul serio e si arrabbiò tantissimo. Devo dire, io la trovo molto brava, io ho riso molto, però mi sarebbe piaciuto vederla on travestì solo per metà festival, diciamo, solo quello posso dire di male di Virginia, che credo sia veramente molto brava. Sì, è brava, bisogna vedere anche una persona brava come viene usata. Se ne abusa anche di un personaggio bravo, perché non c'è idea, non c'è inventiva, va a suo discapito. Però vedi, Marta, io ho sempre l'idea che noi ragioniamo sempre con la nostra mentalità, che è molto snob. Siamo sicuri che l'utente medio di Sanremo, che è quello che si è preso il biglietto per il teatro Ariston, che poi è un buchetto, è un teatrino di paese, non lo immaginate Broadway, è un teatrino di paese in cui la gente si gioca tutti i soldi delle vacanze per andare a fare queste cose, sono quelli che, per andare a vedere il festival, sono quelli che mentre suonava Elton John, invece di vederlo e goderselo, stanno tutti con lo smartphone in mano a fare il filmatino orribile con quel buio che sarà mai venuto fuori. Tanto valeva metterselo in registrazione a casa e poi guardarselo a casa o dire a un parente registramelo o vederselo il giorno dopo, sarebbe stato dappertutto fotografato. No, dovevano prenderselo come fosse una reliquia, la reliquia di Elton John da fermare nel loro smartphone. Ecco, per questi Sanremo è stato un grande evento da raccontare per generazioni e generazioni. Ci fermiamo un istante, tra poco. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Un ragazzo, classe 1916, Giuseppe Ottaviani. Quando su al palco dell'Ariston arriva un uomo di 100 anni, la platea, la galleria si alzano in piedi, perché questo uomo ha fatto la storia del nostro paese e tutti quelli come lui. Posso salutare? Certo, senti. Bravo Carlo, siamo arrivati qua. Senta, ma qua, c'è un segreto? Qual è il segreto? Vuoi sapere il mio segreto? Voglio sapere il suo segreto. Carlo? La ricetta. Ecco la ricetta. C'è la ricetta. Io ho la ricetta precisa. Ce la dico a tutti che ci interessa. L'amore per Alba, mia moglie. E poi l'amore di fare le cose con gioia. Lo sport è una gioia. Perché io... lo accetta con... E due, poi? Qui siamo nel mangiare l'insalata. Io non mangio senza la prima cosa l'insalata. Vedi, insalata fondamentale. Per me. Poi? Poi è la curiosità. No. Io sono curioso. Io sono stato in aviazione. Ma quando passa un aereo occorre che lo veda. Quindi la curiosità è un altro elemento fondamentale. È l'essenziale del sapere. È chiaro che è una speranza indistruttibile per Sanremo il fatto che l'abbonato in prima fila rimanga longevo il più possibile. E perché rimane longevo? Per l'amore della moglie. E quindi vedete che ancora una volta la par condicio viene rispettata. Si è irritato un ascoltatore accusandomi di partecipare al complotto gender che vorrebbe cambiare tutta la realtà e tutta la letteratura dei ragazzi per indurli alla perversione. Se provate gusto a capovolgere la storia di Pinocchio in modo da ritenere una coppia di fatto Geppetto e Mastro Ciliegia e forse di ritenere il ruolo della fata turchina quella di Utero in affitto, siete liberi di farlo, ma non vi seguo più in questa strada. Francesco da Roma. No, la fatina non c'entra niente. Geppetto è ancora più avanti con Mastro Ciliegia. Pinocchio se l'è costruito senza bisogno assolutamente nemmeno dell'utero in affitto, usando soltanto i suoi utensili da falegname come la sega e l'ascia. Quindi non c'entra assolutamente nulla, stia tranquillo. Marina, buongiorno. Buongiorno, piacere di sentirla. Allora, io ho trovato assurdo di far alzare tutto il pubblico come ha fatto Carlo Conti per uno che ha compiuto 100 anni. Non ci trovo proprio niente di straordinario da doversi alzare tutti in piedi. È stato fortunato ad arrivare a 100 anni, punto e fine, magari mangiando sta famosa insalata, ma il tutto mi è sembrato abbastanza penoso, dico la verità. E per quanto riguarda il resto dello spettacolo, noioso. Ecco, però adesso, questa mattina tutte le primine della classe chiamano dicendo io non l'ho guardato, non lo guardo mai, che schifo, una noia così. Ma non ci sarà qualcuno che si è divertito guardandolo? che mi chiama e mi dice: guarda, smettete con queste letture snob, è un bello spettacolo, ci piace, sono belle canzoni, in fondo è la cosa che attendiamo tutto l'anno. Mi piacerebbe che qualcuno chiamasse all'800240024, non per darmi ragione, che io sono ormai sulla via della dissoluzione e a me non può piacere Sanremo, ma qualcuno dice: no, mi piace, diamo un segnale positivo, l'Italia si rincammina verso un suo splendido orizzonte di felicità e tranquillità, perché nessuno lo dice? Irene, buongiorno. Buongiorno, mi dispiace, ma io sono una di queste prime della classe. Una primina della classe, vabbè, non l'ha guardato per niente. No, per niente, sono anni che non lo guardo, per un motivo molto semplice. Però ne è contaminata, vede, deve comunque parlarne in qualche maniera. No, la verità è che oggi ho sentito la trasmissione sapendo che parlava di Sanremo solo perché volevo intervenire per dire questo, che Sanremo è un festival della canzone, ma sono anni che le canzoni che ne escono sono assolutamente dimenticabili, quindi ha perso da molto tempo la sua ragion d'essere. Infatti noi ci ricordiamo Grazie dei Fiori, Nilla Pizzi, queste cose qui, beh, perché è la festa del Santo Patrono. Del Santo Patrono cosa si ricorda? La sua miracolosa vita, i prodigi, le guarigioni, il santo che vola, il santo che passa attraverso le fiamme, il santo che sfida le spade dei reprobi, ma non si ricorda nulla poi del santo. Noi ci ricordiamo soltanto i grandi padri fondatori. È una dimensione epica che ne permette appunto che ogni anno se ne faccia la festa, ma più si va avanti e meno si ricorderà. Danilo Masotti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Danilo Masotti abbiamo chiamato perché è un osservatore privilegiato. Ricordo, è uno degli antropologi urbani più raffinati che ha messo a punto un modello, l'individuazione, lo studio e l'analisi critica di un modello umano trasversale a tutte le civiltà, a tutte le epoche, e a tutte le latitudini, che è l'Umarell. Con quest'occhio ha guardato Sanremo. Sanremo in realtà è stata l'apologia dell'Umarell. Cominciamo da il signore Centenario, che già non è più Umarell, già è entrato in una dimensione che va oltre l'Umarell. Sì, cioè lui è oltre Umarell, ma è stata paradossalmente l'unica ventata di gioventù, di speranza che si è vista nel festival. Mentre in altri protagonisti del festival, sia conduttori che cantanti, emergeva questa paura di invecchiare, proprio, cioè proprio il terrore, vedevi tutti i zigomi di Garbo, tutti ritoccati per cioè, questo teorema, che invece arrivava questo Umarell anagrafico di 100 anni, ma nello spirito era il più giovane di tutti quanti. Certo, la sua putrefazione fisica era il segno indelebile della sua gioventù d'animo, è chiaro, è logico. Esatto. E poi l'Umarell lanciava un altro messaggio nel quale si stanno comunque dividendo tutti, ovvero: come si fa ad arrivare a 100 anni? Si mangia l'insalata, quindi occhiolino ai vegani, vegetariani, anche a queste... Avranno brindato champagne tutti, certo, è furbissimo, messaggio subliminale. Allora, so che tu hai nel tuo staff di ricercatori dei giovanissimi ricercatori, perché vuoi naturalmente una analisi che abbia il più possibile delle evidenze scientifiche. Il più giovane dei tuoi ricercatori, guardando l'incipit di Sanremo, ha detto a un certo punto: papà, perché c'è un vecchio che va sullo skateboard? Mi analizzi questa fulminante lettura? Allora, questo ricercatore è mio figlio di 6 anni, che si è dovuto sorbire insieme a me il Festival di Sanremo. E allora, cioè, io ero lì religioso sul divano che stavo guardando il festival, e mio figlio ogni volta che appariva qualcuno diceva: ma chi è quel vecchietto? Chi è quel vecchio? Chi è quel vecchio? Il primo vecchio che ha individuato è stato Morgan su uno skateboard, e mi ha chiesto: ma perché un vecchio va su uno skateboard? Ecco, questo è stato molto interessante. C'erano vari vecchi, ad esempio, non so, quando è comparso... perché Morgan nell'iconografia fanciullesca è, che ne so, il nonno di Heidi, esattamente uguale, ha la stessa configurazione, come quelli che si mascherano per fare il vecchietto del Far West, o nei cartoni animati sempre un vecchio finto, perché i vecchi dei cartoni animati giapponesi hanno la pelle liscia ma hanno i capelli bianchi perché sono dei fumetti. Ecco, Morgan è l'iconografia del vecchio nella visione fumettistica di un bambino. Sì, e poi apoteosi quando ha visto Gaetano Cureri, ha detto: ma chi è quel nonno? Insomma, lui vedeva dei nonni dappertutto. Quindi conferma il fatto che poi il nonno dei nonni è quello che naturalmente ha dato un maggior brivido di paura a quelli che pensavano che mettesse a repentaglio la compattezza della solida famiglia italiana. A Sanremo 2016, Sir Elton John! Ma come si fa a restare in sintonia con il pubblico così e non deluderlo mai? Perché ancora mi piace suonare, soprattutto dal vivo, al pubblico dal vivo. Mi piace suonare più che mai. E penso che bisogna essere grati per una carriera lunga come la mia, una cosa incredibile. Tutto è grazie al pubblico. Se ti guardi indietro e vedi quel ragazzo che salutava la strada di mattoni gialli, no? Goodbye Yellow Brick Road. Adesso cosa vedi? Chi pensi? Com'è Elton adesso? Non so se questa era una domanda a trabocchetto, una domanda a doppio senso. Se ti guardi indietro e vedi quel ragazzo lungo la strada, lacrime di sudore freddo, ma no, in realtà parlava dell'Elton John giovane. Terribile poi anche quella, scusate, mi viene in mente quando hanno fatto cantare la Pausini con il suo alter ego, come Nat King Cole con la figlia, che poi è anche morta, o come la figlia Cladovilla con Cladovilla. Quello è un escamotage per far parlare un morto con un vivo. Hanno messo la Pausini a parlare col fantasma di se stessa, a cantare col fantasma di se stessa. Allora, Danilo Masomasotti, su Elton John, è una figura importante, perché in realtà è il tenere assieme troppe cose che la natura non permette tenere assieme, la natura nel senso la normale decadenza di un personaggio. Sì, normale decadenza, interessante la domanda, ma Elton John, ma ti ricordi di una volta, di quando eri povero? Quindi cioè, una domanda del tipo, ma tu sei ancora uno di noi? E quindi lui deve rispondere, e quindi però Elton John è stato molto sincero, che ha detto che sì, ma è passato tanto tempo, insomma è un po' tergiversato. Gli anni della sfiga nessuno li ricorda volentieri. Sì. No, ma c'è la nostalgia, c'è comunque questa, appunto, questa nostalgia della miseria, che poi dell'uomo che ce la fa. Stessa domanda Conti l'ha fatta anche al cantante francese verso la fine. Gli ha risposto malissimo, levargli gli occhiali, che era l'unica sì. cosa che c'aveva per sembrare un personaggio figo, sì. capito? Dammi gli occhiali. Sì. E anche lì gli ha fatto una domanda che forse fa parte del format, ma ti ricordi quando eri povero, invece adesso sei qui che non mi dai gli occhiali? Quindi insomma era interessante questo. Interessante. Chissà se Conti si ricorda quando faceva quegli spettacoli tristissimi a Telemonte Carlo con Panarello, che si dava le botte sul pacco, c'era davanti un marsupio che simulava un'ipertrofia fallica e ci si dava le botte sopra. Stessa domanda, vi ricordate quando eravate poveri anche ad Aldo, Giovanni e Giacomo? Quindi un altro valore, i soldi che comunque trionfano sempre. Fermiamoci un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Non sono solo su questo palco, c'è questa sera, vi ho detto, Sabrina, vi ho detto e avete visto che c'è Maddalena, ma c'è anche un grande personaggio, un grande attore che in questi giorni mi ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, l'ha dimostrato anche tutti noi, di essere un grande uomo ed ha ricevuto tanto, tantissimo affetto. Gabriel Garco! Come va? Io bene, tu? Benissimo. Sentivo prima Maddalena che raccontava che lei ha paura che suo padre si addormenti davanti al televisore. Bene, vi voglio raccontare una cosina che mi è successa quando Carlo mi ha comunicato... Ecco, io qua pensavo che Garco dicesse una parola di ricordo per la signora anziana che è scoppiata con la bombola del gas nella casa in cui era anche lui ospite. Non che sia lui il responsabile, ma è una vicenda che comunque ci ha toccato. Lui ha girato con il collare due giorni, è andato nel macerie per cercare di soccorrerla. Comunque sia, forse un ricordo lo meritava questa signora, visto che fa parte della storia di Sanremo. Dimenticata, piallata, non se ne parla nemmeno. Una cosa che bisogna dimenticare e rimuovere, perché è un episodio funesto, perché nella scaramantica lettura che tutti hanno, mai che qualcuno pensasse che è un presagio terribile nei confronti di Sanremo. Anna, buongiorno. Anna già si è sdilinguita e scomparsa sentendo parlare Garco. Francesco, c'è Anna, eccola, arrivata. Anna, vabbè, se non c'è, pazienza. Francesco. Sì, buongiorno. Finalmente ha chiamato qualcuno che gli piace il festival. Sì, a me comunque tutto sommato è piaciuto. Forse non mi è piaciuta Elton John, perché io l'ho trovata solamente una campagna pubblicitaria per il suo nuovo CD. Che comunque lui guardi, le grandi star da sempre sono venute a Sanremo, se hanno qualcosa su piazza, libro, film, disco, se no sì, non ci anche viene. La Pausini, il nuovo tour. Anche la Pausini, certo, è venuta per quello, è logico. Però tutto sommato, basandoci sulla storia del festival, che è basato sulle canzoni italiane, è stato un bel festival, belle canzoni. Quindi l'ha trovato, diciamo, in linea con l'attesa di chi ama il festival. Io poi posso anche giocare quanto voglio, non riesco a forzare il mio giudizio, però è logico che a me non piaccia, che non ci trovi nulla. Sono sempre stato antitetico alla canzone, non capisco la musica, gli spettacoli pop mi interessano solo negli aspetti grotteschi, ma per chi dice voglio vedermi un bel festival, è stato in linea con le sue attese? Sì, è stato in linea con le mie attese, anche credo le attese di molti italiani, perché comunque ci sono state canzoni che hanno parlato dei problemi del nostro paese, come c'è stata la canzone di Rocco Hunter. Siccome io, essendo un ragazzo di 26 anni dove il futuro è incerto, l'ho trovato in linea con le aspettative. Quindi c'era veramente un impegno anche ideologico e politico in questo festival che noi non abbiamo colto, evidentemente. Può darsi sì, può darsi no, però io sul mio punto di vista penso che è stato in linea. Sono contento, sennò sembra che facciamo una trasmissione viziata da un pregiudizio. Anna, l'abbiamo trovata, Anna, eccola. Sì, buongiorno Micheletti, buongiorno. Sì, dove era andata Anna? No, io ero qui, vi sentivo benissimo. Non sentiamo lei. Allora, a lei è piaciuto molto, lei è entusiasta. Sì. Allora, io le dico, ieri sera non l'ho visto purtroppo, perché non ho potuto vederlo. Di cosa è entusiasta? No, sono entusiasta del fatto che comunque a me piace il Festival di Sanremo, l'ho sempre visto negli anni precedenti, non tutte le sere ovviamente. Questo non ha visto nulla, non sa nulla, non saprebbe dire nulla. Purtroppo questo no. Quindi è un atto di fede incondizionato. No, ma riferendomi a quello che diceva precedentemente, chi piace, chi non piace il Sanremo, a me è sempre piaciuto, l'ho visto. Ma chi piace lo guarda però, non è che non lo guarda. Sì, ero impegnata, Micheletti. Che doveva fare? In tutta la mia vita non giro intorno al Festival di Sanremo. Perché cosa faceva ieri? Ero fare? Una riunione di condominio all'asilo. No, all'asilo per il bambino. E di notte? Quindi non potevo esserci. E di notte? Riunione all'asilo di notte? Di sera, però poi a una certa ora devo andare a letto. È finito a mezzanotte? C'è mia figlia. Sì, ma io ho una figlia che di notte mi sveglia spesso, quindi io devo dormire. E tanto posto. Vale tenere la televisione accesa? Non ce l'ho io in camera. Vabbè, lei voleva partecipare, basta, ho capito. Franco. Salve. Buongiorno. Buongiorno, io sono uno che attendo il Sanremo durante l'anno. Oh, finalmente, ecco, mi spieghi, lei è il classico utente ideale di Sanremo? Io non sono un utente di Sanremo, vedo Sanremo come, sai, dall'infanzia che abbiamo visto quel Sanremo delle canzoni italiane, e quindi... Una festa comandata. Una festa italiana, della musica italiana, la musica è cultura, la musica è... E ieri come ha festeggiato? Come ha festeggiato? Mi è piaciuto già i sketch, poi... Detto tra di noi, il conduttore è bravissimo, ha fatto tutte quelle cose. Lei lo guarda da solo o lo guarda in famiglia, Sanremo? No, lo guardo da solo, fortunatamente, perché vivo da solo e quindi mi metto a casa tranquillo. Non riesco a vederlo tutto perché poi io la mattina mi alzo presto. Sabbiocca, quindi. Ho sentito sino a quanto è uscito l'artista, come si chiama? Elton John. Sì, vabbè, 10:30 ha cantato, quindi ha finito, è andato via prima delle 23, ecco, una cosa del genere. No, fino alle 23 l'ho visto. Ecco, però io mi domando, Franco, siccome Sanremo, il pubblico di Sanremo è questo, è lei che mi dice questa cosa qua, la signora prima che c'ha la riunione all'asilo, che c'ha la figlia che piange, lei che deve alzarsi il giorno dopo, vale la pena di portarlo fino a un orario così tardo se il pubblico medio, quello in prima fila guarda Sanremo, poi il pubblico che il giorno dopo, che non ama fare le ore piccole, guarda la televisione fino a un certo punto, è una scansione limitata alla sua giornata, un po' finisce come finiva la televisione al tempo monocratico dell'unica rete, tipo alle 9:30-10 finiscono i programmi, passa al monoscopio. Allora io voglio fare solo questo inciso. Visto che Carlo Conti ci ha portato i nuovi big inizialmente, non l'ha messo all'ultimo, diciamo, secondo me farebbe meglio pure anticipare di una mezz'oretta il Sanremo, che lo vedono tutti, perché è una bella manifestazione italiana e la devono guardare tutti questa cosa, perché è veramente bello Sanremo, poi sono canzoni italiane. Quindi la televisione di servizio, secondo lei, non dovrebbe guardare l'imperio dell'orario, della controprogrammazione, ma se è uno spettacolo popolare dovrebbe cominciare alle 8, perché quella è l'ora in cui la famiglia italiana è vispa. Appena dopo il TG, alle 8 e mezzo. 8 e mezzo. Non tirarla con quella menata di mezz'ora, fa vedere tutti i vecchi Sanremo, il pre-Sanremo, per non avere contro Striscia la Notizia, questi calcoli non dovrebbero essere bravo, fatti. Tutte queste cose qua. Poi un'altra cosa che io dico, queste persone che snobbano Sanremo, persone che snobbano Sanremo, per me sono delle persone che secondo me non amano l'Italia. Hanno dei problemi. Non amano l'Italia. Certo. L'Italia è bella perché c'ha tante cose belle. E tra queste cose c'ha la musica. Ecco, se ne vadano, all'estero questi che non amano Sanremo, così vedranno cos'è il mondo senza l'abbraccio delle canzoni di Sanremo. Mi sembra sacrosanto quello che lei dice. Christian. Sì, ciao, Colette, Christian, da Brescia. Sì. Volevo dire che dopo tanti anni che non guardavo più Sanremo ormai, è stato nel passato, negli anni Ottanta, era sicuramente... la trasmissione prima, per quanto riguarda... E quindi anche lei fa parte degli amanti di Sanremo? Sì, sì, avanti di Sanremo, però ieri sera ha incantato Elton John. Troviamo 56, devo dire soltanto che da oggi per tutto Sanremo ci sarà uno speciale di Enrico Ruggeri che racconterà ogni giorno su Radio 24 il festival di ieri e di oggi, quindi ci sarà una trasmissione speciale tutti i giorni, Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri, che racconterà Sanremo per il piacere del pubblico di Radio 24, composto anche da persone, avete sentito, che sono andate invisibili per la serata di Sanremo. Alla prossima!